Cari amiche, cari amici, Radio Alma, Brussellando, Mari Die Microfoni questa sera. E questa è la prima puntata di Brussellando della stagione primaverile, quindi a tutti gli effetti anche a Bruxelles possiamo dire che c'è un barlume di speranza, ecco, che non c'è soltanto la pioggia, non c'è soltanto questo grigio che quotidianamente ci circonda, che anche qui finalmente c'è qualche albero in fiore, insomma, finalmente ne avevamo tanto parlato ed eccola, la primavera è arrivata, non in anticipo come direbbe qualcuno, però tutto sommato siamo veramente contenti. Questa sera è una puntata un po' speciale, una puntata in cui sono da sola, quindi i nostri amici di viaggio Fiordaliso e George sono impegnati in un altro programma culturale questa sera, quindi insomma noi li salutiamo, probabilmente ci faranno anche una sorpresa più tardi, chissà. Da George mi aspetto di tutto, quindi abbiamo più di un ospite che questa sera ci farà compagnia. Prima di proseguire volevo segnalarvi che il prossimo 12 aprile sarà nostra ospite una scrittrice che presenteremo invece il 5 aprile alla Libreria Piola, Camilla, e io sono veramente emozionatissima perché il suo libro Canto di notte è veramente, insomma, particolare, quindi sono contenta e di poterla incontrare personalmente il prossimo ho detto il 5, ma in realtà è il 4 aprile, e ho sempre in testa Brussellando come date, poi in realtà non c'è soltanto il martedì, ci sono altri giorni della settimana, fortunatamente, e quindi sarà nostra ospite prossimamente, ma già quindi lunedì 4 aprile alle 18:27 alla Libreria Piola. Quindi spero, insomma, che quanti all'ascolto possano partecipare, perché vi assicuro che ne vale la pena. Dani M è in regia, almeno c'è qualcuno con me questa sera, altrimenti veramente mi sarei sentita un po' sola. Un saluto a tutti. Non ci sono abituata, insomma, sai, quando uno è abituato a trascorrere il proprio tempo, quest'ora di tempo in compagnia, è strano poi essere effettivamente da soli. Come dicevamo, quindi questa sera abbiamo due ospiti, tra l'altro uno è già stato nostro ospite sia in radio due anni fa, sia a Bruxelles, nostro ospite quindi anche fisico, e io sono molto contenta di ritrovarlo dopo quasi due anni, e vuol dire che è uno scrittore che, anzi lui in realtà è un poeta che scrive, che continua comunque ad essere sensibile a tutta una serie di realtà. Tra l'altro lui è uno scrittore abbastanza, è anche giovanissimo, quindi insomma significa comunque che se ne dica, in Italia è vero che siamo un popolo di scrittori, di navigatori, di poeti, questa è veramente una conferma. Ed Enrico Maria è sicuramente una piacevole conferma, perché riesce a farsi portavoce ed interprete di sentimenti, soprattutto di una fascia d'età, che quella poi giovanile, adolescenziale, che ha tanto da dire. A volte magari probabilmente non è soltanto quella fascia d'età, però Enrico riesce a non lasciarci indifferenti a tutto quello di cui lui scrive. Tra l'altro non sono poesie che magari troppo liriche o comunque troppo legate a quelle che possono essere le forme metriche abituali, però il suo lavoro ci mette subito di fronte alle sofferenze di una persona e della sua infanzia negata. Quando ero ubriaco, cito una delle sue poesie, gli agenti della Polfer ammanettavano mio padre ad un termosifone. Facevano così perché, pieno di alcol, diventava violento. Non si può certo dire che ci si trova davanti ad una poesia metaforica. Enrico ha un linguaggio diretto, a tratti crudo, che subito ci trascina dentro gli eventi, lasciandoci senza fiato. È una poesia a tratti minimalista, dove le descrizioni sono molto forti, e Lucariano, di cui sto leggendo la prefazione, lo ha paragonato a Carver e a poeti statunitensi. Il titolo quindi di questa sua ultima collana è Fino a qui. Enrico? Ah sì, ecco, ciao. Benvenuto, ben trovato. Grazie, grazie. Come stai? Abbastanza bene, voi? Noi qui una volta tanto posso dire che non siamo al freddo. Perché è arrivata anche qui la primavera. D'altro lato, insomma, sempre abbastanza indaffarati. Mi senti bene? Adesso sì. Ah, ok, avevo un problema con la cuffia e col microfono. Se Daniele mi aiuta dalla regia, probabilmente. Dani. Ah, vabbè, dai, proviamo. Se poi non mi senti, me lo dici. Va bene. Ok, allora, tu eri già stato nostro ospite, come abbiamo accennato, qualche tempo fa, sia qui a Bruxelles, quindi conserviamo ancora un piacevolissimo ricordo, sia poi intervistato in radio. Raccontaci brevemente, insomma, ricapitoliamo un attimo quella che è la tua biografia, perché sei giovanissimo, eppure hai già scritto tante raccolte e pubblicato poi, perché insomma questo è quello che poi resta. Sì, vabbè, al di là della presenza delle antologie, fino a qui è la quarta raccolta che pubblico. Le prime due sono state pubblicate per una casa editrice di Genova, Annexia, e si intitolavano una col mio stesso nome, quindi Enrico Maria, e l'altra Rivendicando disperatamente la vita. Nel 2007 poi c'è stata l'uscita con Zona, con Precipita con me, e il 2 dicembre del 2010, che per me è stata una data importante, c'è stata l'uscita di Fino a qui con appunto capo editrice, un'uscita faticosa. Fino a qui ha una storia decisamente pesante alle sue spalle, è stata una genesi dura, un parto difficile, complicato, e per questo devo ringraziare tutto lo staff di Punta Capo, perché altrimenti questo libro sinceramente non sarebbe mai uscito, devo dire la verità. Che cosa trovi sia cambiato nella tua scrittura? Perché è stato così difficile concludere questo lavoro rispetto alle altre volte? Allora, di fondo c'era sempre una forte urgenza comunicativa. L'intento con Fino a qui era di scavare ancora più a fondo, di andare ancora più al cuore delle cose. La difficoltà più grossa che ho avuto io, e che ho ancora adesso, a pochi mesi dall'uscita del libro, è quella di non avere il controllo di questa materia, della materia scritta, della parola che è finita su carta. Non c'è ancora abbastanza distanza tra me e quelle sensazioni, ed è per quello che è stato un libro difficile da finire e poi da pubblicare. No. Fino a qui però indica come se fosse un po' una transizione. Partiamo dal titolo, sembra quasi che tu abbia fatto un attimo il punto della situazione, come se avessi voluto raccogliere dei pensieri e registrarli soprattutto in un certo momento. Dici bene, fino a qui nasceva dalla necessità, dalla voglia, dalla volontà di mettere un punto, di segnare il territorio, di dire... di avere e di dire di appartenere a un luogo sia geografico che fisico che dell'anima. E fino a qui era il momento per tirare un po' le somme, per arrivare a un certo punto di un percorso, per iniziare un po' a capire anche i lavori precedenti e per dare dignità alle persone, agli avvenimenti, alle figure e alle emozioni che vengono raccontate in tutti i quattro i libri che finora ho pubblicato. Sì, quindi fino a qui era proprio un titolo che da un certo punto di vista per me è emblematico, non ci poteva essere un altro titolo, doveva essere per forza fortemente esplicativo e doveva avere una carica forte, già dal suo stesso nome, doveva enunciare il fatto di dare delle dritte su un percorso, ecco. E quanto c'è di autobiografico e quanto invece c'è una tua capacità innata, personale, di autoimmedesimarti? Scusa, l'ho fatta. C'è una parte autobiografica nel libro. Non tutto quello che è detto sono cose che sono accadute realmente a me. Il problema è un problema meramente tecnico, io sono capace solo a scrivere in prima persona, e la scrittura in prima persona è anche un modo per rendere giustizia a persone a me care, a me molto vicine, amici fraterni che hanno vissuto determinate esperienze, e l'unico modo per poter portare tutto questo all'esterno e farlo in prima persona, rivivendo nella mia pelle, nel mio cuore, nella mia anima, nel cervello, quello che hanno passato gli altri, per appunto, quasi per un pegno di amicizia, ecco. È inevitabile usare la prima persona. E sai, questo diventa anche un modo per essere più vicini anche a chi legge, perché molto spesso comunque abbreviare magari le distanze diventa più semplice con una scrittura che è più immediata, più diretta, anziché magari esprimere in terza persona dove già si esprime un distacco di per sé. Sì, io in tutti gli ambiti credo ciecamente nella sincerità. Quando si parla delle proprie emozioni cerco di non avere pudore, e quindi è anche giusto dal mio punto di vista non avere barriere, e da qui la scelta della prima persona. Non voglio che ci sia un confine tra me e chi ho davanti, ma come in qualsiasi altra cosa, non voglio che ci sia lo spazio per l'interpretazione, voglio che ci sia un dialogo aperto e chiaro, voglio che sia una partita che venga giocata a carte scoperte, perché in qualche modo si parla sempre comunque di vita e di esistenza, e su queste cose, che sono le cose più grandi che abbiamo, il confronto deve essere totalmente aperto. Enrico, quanto la scrittura riesce a colmare dei vuoti, a colmare delle esigenze che si manifestano, come dici tu, in questo ampio spettro chiamato vita? Colmare dei vuoti non credo che ci riesca. Non credi? Non pensi che la parola possa aiutare? Universalmente probabilmente è possibile, nel mio caso specifico no, leggendo altri sì, nel processo mio personale di scrittura la scrittura non serve o non aiuta a colmare un vuoto, è un supporto per portare avanti una piccola battaglia personale, per rendere vere certe cose che non sarebbero vere se non venissero dette ad alta voce, per capire qualcosa più di se stessi, per comunicare agli altri, per aprirsi agli altri, per aprirsi al mondo. Sicuramente è una cosa utile e benefica. Non so se poi sia una soluzione vincente che possa colmare un vuoto e di conseguenza vincere dei dolori. Questo è vero, questo effettivamente poi è un percorso abbastanza personale, quindi. Enrico, ti va di leggere magari un estratto da Fino a qui? Sì, volentieri. Ok. Ti ascoltiamo. Ok. Ricordo la prima volta che ho fatto una doccia vera. Ero negli spogliatoi della squadra di calcio per cui giocavo da ragazzo. Ricordo la sensazione che ho provato, sentendo l'acqua cadere sulla spalle. Ricordo che ho pianto. Ricordo che ho strofinato così forte la mia pelle, fino a quasi farla sanguinare, come se avessi voluto cancellare quello che ero. Da me usavamo una bacinella, che per fare un bagno tiepido veniva riempita grazie ad uno scaldabagno elettrico che ci aveva regalato una vicina. Non tutte le famiglie hanno belle storie da raccontare. Mia madre, insieme agli altri servi, veniva esibita come segno di superiorità dai signori per cui lavorava. Io ho sempre avuto fretta, ho sempre voluto vedere le cose cambiare e non mi è mai importato il modo di farlo. Passando dalla semilibertà all'affidamento ai servizi sociali, ho cominciato lentamente a spegnermi e a morire. Io non conosco le ragioni dell'amore. Nell'innocenza del silenzio di un abbraccio, conosco soltanto le grida che muoiono nel buio della notte. Il peggio non passa mai, ho freddo dentro, e non riuscendo più a tenere gli occhi aperti davanti al dolore, mentre mi compro una dose, so che la mia vita resterà una preghiera che non prenderà mai corpo. Come di speranza, mi sembra di capire, oppure no? Non ho capito, scusa. In questa poesia c'è un barlume di speranza, oppure che cosa resta poi alla fine? Non so se è proprio speranza, è quasi una forma laica di fede, nel senso io credo, alla fine credo nella vita, credo nelle persone, credo in quello che accade. di conseguenza c'è sempre la voglia o comunque la necessità e il tentativo di trovare la forza per guardare un po' più in là. Questo è quanto poi allora in realtà la vita ci fa vivere? Non ho capito, scusa. Quindi insomma, per ricollegarmi a quello che dicevi tu, la vita ci fa vivere necessariamente. Certo. Eppure anche un reagire, una reazione a tutta una serie di cose, come tu dici di questo ragazzo che descrive la madre essere esibita, però lui voleva cambiare le cose, voleva cambiarle anche abbastanza velocemente, quindi c'è una forma di speranza insieme di reazione. Sì, in tutto il libro c'è un continuo rincorrersi tra speranza e caduta, tra vita e morte, tra dolore e gioia, tra felicità e infelicità, sono binomi indissolubili. Quello che credo che sia necessario è che comunque è qualcosa che vale la pena provare. Non bisogna mai farsi prendere eccessivamente dall'arrendevolezza, anche nei momenti più cupi. Reagire è importante. Reagire è importante perché è importante, dal mio punto di vista, lasciare una testimonianza di sé. Non deve essere fatta per forza scrivendo, ci sono mille modi per testimoniare la propria esistenza. Enrico, vuoi leggere un'altra poesia? Ok. Dal libro o volete un inedito? Guarda, sai che essendo in diretta, ovviamente l'inedito è sempre una piacevole sorpresa, quindi perché no? Ok, allora vado per un inedito. Come molte mogli, mia madre lottava per non vedere. A Novi, in Vigolo Chiara, i treni, la ferrovia, coprivano le grida di lei, su cui si sfogava mio padre, confondendo il sesso con lo stupro. Due aborti, fratture, lividi. Ci è voluto questo per far muovere il culo ai carabinieri e a quelli del centro antiabusi. A 17 anni sono scappato dalla casa popolare che ci avevano data per ripartire. Tiravo avanti con lavori di una settimana mal pagati, in imprese di pulizia o di tedi traslochi, mangiando una volta al giorno, con 3.000 lire i chioschi di caricamento. Quando la rovina comincia è difficile da fermare. Io non ho saputo reagire al distacco, all'abbandono, e affondando nelle pozzanghere con le scarpe di tela, sogno di stare sotto una coperta, insieme a una tazza di latte caldo. Di vita qui non ce n'è per tutti. Quasi nessuno è tornato indietro. Gli spacciatori sono ormai gli unici a cercarmi. E nelle forze che mi abbandonano, mentre il mare mangia Genova, ai piedi di un cavalcavia della Sette, vorrei che il cielo liberasse il sole. Vorrei luce a guardare il mio corpo, le cicatrici. Vorrei riconoscere la verità nel modo in cui riesce solo ai bambini. E vorrei che qualcuno mi dimostrasse che posso vivere anche senza droga. Questo insomma... Effettivamente mi sembra essere un bellissimo messaggio di speranza. Che cosa bolle in pentola allora, nel futuro? Cosa ci puoi raccontare e svelare? Allora, no, adesso ci sono una serie di presentazioni, c'è un calendario fitto, intenso, nutrito, di cui sono molto contento. Devo ringraziare veramente tanto la casa editrice perché mi sta sostenendo in tutto questo e le presentazioni sono utili perché comunque non ci si limita, almeno quello che testa io non vuole essere solo la mera promozione di un libro, vuole essere qualcosa in più, una persona che racconta una storia, che si apre agli altri, e vuole che tutto questo sia un'occasione di confronto, no? Modo per aprirsi, per scambiarsi punti di vista sulla vita. Guarda, assolutamente, poi il contenuto mi sembra di capire veramente ne valga la pena. Tra l'altro colgo anche l'occasione per salutare Luca Ariano, che è stato uno dei nostri primi ospiti qui a Bruxellando ormai qualche anno fa, e Luca ha scritto per te anche la prefazione di Fino a qui. Luca mi ha fatto questo splendido regalo, di cui io gli sarò eternamente grato, e tra l'altro riusciremo adesso a fare una presentazione insieme il 9 aprile a Pavia. Sarà molto bello poterlo vedere di persona e sono molto contento di potergli portare i vostri saluti. Io però volevo salutarti con una poesia che brevissima, che io ho trovato veramente bello, che è la seguente. Non sono George, quindi magari la mia lettura non sarà proprio come quella di George, però dammi la forza per non chiamare vita questa cosa a cui facciamo da carne da pacello, e trasformando i demoni in pagliacci, dimmi che tu ed io saremo ancora una città dentro la città. L'ho trovata stupenda, quindi insomma mi faceva piacere salutarti in questo modo. E ovviamente Enrico, ti auguriamo tanto tanto successo, il successo che la tua scrittura merita, e speriamo di ritrovarti nostro ospite qui nuovamente a Bruxellando. Grazie davvero di cuore. E io volevo solo confermare una cosa. Sì. Quando ero venuto a Bruxelles, ho passato lì 2 giorni stupendi. Avevo detto che tornavo a casa con la sensazione di aver allargato la mia famiglia, e questa sensazione non mi ha mai abbandonato in questi 2 anni. Ah, grazie. E la volevo confermare ad alta voce. Enrico, gentilissimo, ti ringraziamo davvero, tutto il meglio, e come sempre facci sapere, noi saremo qui pronti ad ascoltarti. Va bene, grazie. Sì. Buona serata. Grazie anche a voi. Cari amiche, cari amici, eccoci nuovamente qui Bruxellando, e sono veramente contenta perché abbiamo un altro ospite col quale insomma parleremo di un tema che non è più di attualità, eppure tutto sommato riesce ancora ad attirare l'attenzione della stampa internazionale. Questa sera infatti parleremo di Afghanistan, e ne parleremo con un consigliere della nostra, diciamo, del nostro corpo diplomatico, Nicola Minasi, il quale ha trascorso 3 anni a Kabul, e donde quindi questa l'idea di pubblicare 1000 giorni a Kabul. E in 1000 giorni a Kabul ritroverete tante cose, è una lettura davvero piacevole, scritta poi con uno stile che ho trovato veramente leggero, sebbene a tratti nella solidità degli argomenti di cui Nicola ha parlato non fosse facile quindi garantire questa uniformità di stile. Però Nicola è stato veramente veramente bravo, questa sua esperienza triennale ci ha permesso di rivivere e di vivere tutta una serie di dettagli, non solo quelli poi più legati al contesto afghano, ma anche quelli più piacevoli, quindi ci sono spaccati di vita, si parla di cultura, si parla di una serie di vicende che tanto hanno attirato l'attenzione dell'opinione pubblica in generale. E per dirvi brevemente, Nicola è giovanissimo diplomatico, è stato anche ricercatore presso il Centro Militare di Studi Strategici, e già ormai da un decennio è entrato in carriera diplomatica. È stato negli Emirati Arabi, in Afghanistan, in entrambi i casi come funzionario vicario dell'ambasciatore, e quindi ha trascorso questi 3 anni in terra afghana, e è riuscito effettivamente a ritrarne un qualcosa di più. Non è soltanto la descrizione di un paese in cui si vive, quindi come si vive in un paese straniero in una situazione di post-conflitto, no, c'è di più, c'è qualcosa che si traduce nell'ordine internazionale della vita quotidiana degli espatriati, perché immaginate, non c'è soltanto la guerra. Tra l'altro il tema lo avevamo già affrontato 2 settimane fa, quando abbiamo intervistato Mariella De Santis, la quale ci aveva raccontato un'altra storia, una storia nella storia, si può dire, una sorta di teatro nel teatro, e questo poi era effettivamente l'approccio di Mariella, che ci aveva detto in maniera molto chiara: quando c'è la guerra non immaginate soltanto un contesto di guerra. In questo momento, ahimè, queste parole potrebbero anche sembrare profetiche, giacché stiamo vivendo da qualche giorno questa nuova missione in Libia, di cui ovviamente ciascuno credo al momento abbia già elaborato una propria teoria. Fatto sta che il mondo occidentale, di una realtà così vicina all'Italia, così come accadeva per lo scritto di Mariella, che invece narrava di quella guerra che 10 anni fa ci toccò ancora più da vicino, che era la guerra in Kosovo, tutto sommato la guerra in Libia è veramente vicino ai nostri confini, vicino alla nostra realtà, è vicina alla Sicilia, è vicina a Lampedusa, tanti sono i problemi di cui stiamo leggendo oggi nella stampa, non solo ovviamente per noi italiani in quanto limitrofi a queste realtà, ma immaginiamo anche quella che è la tragedia che sta vivendo adesso in ogni caso il popolo libico. E quindi parlare questa sera proprio con Nicola di una guerra che non è nemmeno poi così lontana, e parlarne magari con un attimo di distacco, perché tutto sommato Mille giorni a Kabul offre una risposta spontanea, sorniona e autoironica, sicuramente da un punto di vista privilegiata. Ovviamente l'ambasciata d'Italia tra il 2005 ed il 2008, e la bravura di Nicola è stata anche quella di saper, attraverso la sua analisi personale, restituire uno spacco vivo ed autentico dei fatti di cronaca. Se pensiamo per esempio al rapimento Cantoni, alla vicenda Mastro Giacomo, insomma, assume i toni per evocare in modo veritiero, seppur parziale, una realtà difficile ed affascinante. E tra l'altro, essendo questo l'angolo dedicato alla pena del diplomatico, e ne avevamo parlato anche recentemente con un altro ospite diplomatico, avevamo indirizzato anche un messaggio ai più giovani, a coloro i quali sono interessati ad un lavoro internazionale, curiosi quindi della vita sul campo, però permette anche di scoprire, di sapere qualche cosa in più all'interno dell'Afghanistan di oggi. Quindi sicuramente la scrittura di Nicola è riuscita in un esperimento che riunisce letteratura, cronaca e vita vissuta per riprodurre un mondo complesso e lontano. Nicola. Eccomi qua, buonasera. Benvenuto a Bruxellandia, Radio Alma, ti ringrazio per aver accettato il nostro invito. Vi ringrazio io, è una bellissima opportunità e un saluto a tutti gli ascoltatori di Inveggio. Allora, raccontaci qualche cosa di te, insomma, prima di parlare direttamente del tuo scritto, di cui ho anticipato sommariamente già varie cose. Grazie. Ma io sono entrato nella carriera diplomatica 11 anni fa, ho 37 anni, sono stato a Roma un anno e mezzo nella direzione che si occupa dell'assistenza agli italiani all'estero, e poi sono partito per le prime missioni fuori. Sono stato 4 anni negli Emirati Arabi, nella capitale Abu Dhabi, dal 2001 al 2005, e appunto nel 2005 ad agosto sono arrivato a Kabul. Non sapevo quanto sarei rimasto in quel momento, alla fine sono passati 3 anni, appunto i 1000 giorni del libro, e sono rientrato a Roma nel settembre 2008, e da quel momento lavoro all'unità di crisi del Ministero degli Esteri, e quindi ho continuato a occuparmi parzialmente di Afghanistan. Purtroppo abbiamo avuto diverse crisi là, però ecco, mi è stata anche utile, mi è tuttora utile l'esperienza maturata lì. E a parte questo, mi piace molto la cultura orientale, viaggiare e leggere. Ecco. Qual è stato il processo? Sai, trascorrere 1000 giorni a Kabul magari, sai, potrebbe essere una parentesi di vita che hanno vissuto tante persone, però non tutti hanno pensato di scriverci poi un libro. Qual è stato l'elemento culminante che ti ha iniziato a far scrivere? Ecco, in realtà la cosa bella è che io l'ho potuto scrivere il libro perché non avevo nessuna intenzione di scriverne uno, e mi spiego meglio. Io sono arrivato in un ambiente che fin dal primo momento ho avvertito come estremamente complesso, e la cosa più interessante era proprio la fauna internazionale con cui mi confrontavo ogni giorno. Per un anno e mezzo sono rimasto a osservare tutto questo, poi è scattato veramente il bisogno di cominciare a raccontare a me stesso quello che stavo vivendo. Non volevo che sfuggisse, che diventasse un ricordo indistinto, quindi ho iniziato a prendere alcuni appunti puramente personali, e questo è un lavoro che si è sviluppato per un anno e mezzo poi, quindi dalla metà del mio percorso fino al momento di partire, e è stato solo nel momento in cui ho sentito di avere raccontato a me stesso tutto quello che volevo raccontarmi che mi sono accorto che avevo tra le mani un libro, ed è stato anche un momento abbastanza toccante, perché è arrivata la decisione di condividere con un pubblico, e quindi andare anche incontro alla critica dei lettori, quello che per me era stato importante, che mi aveva toccato di più. Tu tocchi tanti aspetti, perché effettivamente il libro è molto completo, quindi c'è la vita internazionale vista dall'interno, quindi Questo è un contesto, però c'è anche l'altro contesto, cioè l'interno visto dal lato internazionale. Ci sono figure di cui tu parli in maniera veramente, direi, con affetto, quindi varie persone che tu hai potuto incontrare in loco. Che cosa vorresti aggiungere in più su questo argomento? Bellissima domanda. Intanto grazie per aver notato questo aspetto, cioè del modo di raccontare. Io ho tentato di mantenere un certo stile, cioè di riconoscere che, per quanto privilegiato il mio sguardo sull'Afghanistan negli anni in cui ero lì, è anche limitato, perché è un po' il problema e la trappola in cui si trovano tutti gli attori internazionali in un paese complesso come quello. Quello di sentirsi potenti per avere accesso a persone magari influenti, però di essere automaticamente anche tagliati fuori dalla realtà quotidiana. Ecco, per rispondere alla domanda, che cosa si può aggiungere? Penso che sarebbe bello pensare a tutti coloro che lavorano magari silenziosamente, magari appunto all'ombra delle cronache internazionali, in Afghanistan, per condividere la vita quotidiana con gli afghani. Per combinazione, proprio oggi ho parlato con una suora giapponese che è citata nel libro assieme ad altre. Si tratta di una comunità piccolissima, appunto di quattro suore, di un ordine che è quello delle piccole sorelle, che è nato all'inizio del Novecento. Insomma, per farla breve, sono delle persone che presenti un po' in tutto il mondo, nei paesi islamici, senza nessuna intenzione di convertire nessuno, ma solo per condividere, per partecipare alla vita della popolazione locale. Ecco, queste sono persone che io ritengo particolarmente importanti, cioè ci sono alcune persone nel mondo internazionale che cercano di condividere la vita di ogni giorno senza della popolazione locale, senza mire politiche o senza cercare di perseguire determinati interessi. Penso che sia veramente una testimonianza molto importante, perché dà anche un segnale di cosa veramente fa costruire dei rapporti importanti con popoli lontani che possono reggere nel tempo. Nicola, una curiosità, e forse c'è dell'altro dietro questa domanda: che cosa vuol dire vivere nell'insicurezza? Ah, per me è stata un'esperienza fortissima, perché si entra in una situazione psicologica molto sottile, cioè c'è la testa che aiuta a chiarire quali sono i momenti oggettivamente difficili, quelli di rischio, e a prendere delle contromisure o perlomeno delle precauzioni. Però c'è il cuore che segue una dinamica completamente diversa, per cui anche in momenti relativamente tranquilli magari torna il ricordo di occasioni in cui si è visto o morire degli amici, o si ripensa a degli incidenti che ci sono stati che potevano toccarci, e questo fa entrare appunto in uno stato mentale di grande stress. Poi io e gli altri colleghi in ambasciata siamo stati relativamente molto fortunati, perché comunque vivere a Kabul sì, crea tensione, ma sicuramente non vuol dire stare sul campo di battaglia. Però capisco benissimo tutti coloro, anche militari, che tornando accusano i sintomi di quello che viene chiamato post-traumatic stress disorder, cioè appunto la sindrome dell'affaticamento da stress che viene dallo stare continuamente, anche inconsapevolmente, in una situazione di insicurezza. E ci vuole moltissimo per riprendersi, e bisogna avere molta pazienza e anche appunto il coraggio di riconoscere a quanto stress, a quanta fatica mentale ci si è sottoposti. Per concludere, è anche però una condizione che, se vissuta con attenzione, rivela anche aspetti molto importanti della personalità e aiuta a conoscersi meglio. Sicuramente per me lo scrivere è stato anche un modo di appunto creare una voce narrante che mi aiutasse a mantenere anche una certa stabilità. Eppure, come tu dicevi, nel libro c'è qualcosa in più, parli anche di cultura, parli anche di questo incontro, quindi con la cultura, come dicevi prima, di cui tu sei un cultore, quella orientale. C'è un episodio magari o qualcosa che tu vorresti condividere con i nostri ascoltatori questa sera? Perché no? Un fatto che mi piace sempre ricordare tra me e me è stata una passeggiata che ho fatto ancora quando si poteva nella città vecchia a Kabul in compagnia di un personaggio veramente credibile. Tutto questo è descritto nel libro, è la principessa India d'Afghanistan. La principessa India, che si chiama così perché è nata in India, è una delle figlie del re Amanullah Khan, che nel 1921 dichiarò l'indipendenza dagli Stati Uniti, l'indipendenza dalla Gran Bretagna. Tra l'altro poi fu spodestato da tutta una serie di vicende e quindi morì in esilio in Europa e visse in Italia. E questo prima che arrivasse in Italia l'altro re dell'Afghanistan che abbiamo conosciuto meglio, Zahir Shah, che è deceduto pochi anni fa. India è tornata in Afghanistan dopo il 2001 un paio di volte e nella sua seconda visita io ho avuto il piacere e l'onore di incontrarla a Kabul, adesso lei si trova a Roma, e abbiamo fatto insieme questa passeggiata nella città vecchia. E un episodio che mi ha toccato moltissimo è stato che, entrando in questa città vecchia, nei vicoli vicino ai palazzi più antichi, molti anche chiusi, ho sentito veramente di entrare in un altro mondo, perché improvvisamente mi trovavo in un'oasi di pace, con il piacere di visitare luoghi inaccessibili a moltissime persone che magari avrebbero piacere di andare a seguire quegli stessi passi. E mentre camminavo sentivo una musica che veniva da un vicolo che non riuscivo a identificare esattamente, sentivo un battere di mani e dei tamburi. E ad un tratto mi sono trovato di fronte ad una porta aperta di una casa da cui veniva questa musica, ho guardato dentro e ho visto dei bambini che appunto con tamburi di fortuna facevano la musica, cantavano, e una bambina che danzava in mezzo a questo cerchio in un modo, ecco, avrà avuto forse 9 anni, ma con una capacità, con una grazia, devo dire anche con una sensualità molto matura, e sono rimasto totalmente sorpreso e mi è venuto da ridere, e per un attimo il mio sguardo si è incontrato con lei, è venuto da ridere a tutte e due, perché improvvisamente ci scoprivamo timidi, io a gettare lo sguardo dentro questa scena familiare e lei a farsi scoprire in un momento così divertito, e questa risata totalmente libera, anche di piacevole e reciproca, mi è sembrata veramente inaspettata, e mi ha fatto capire che veramente c'è un mondo, una cultura ricchissima che c'è celata in gran parte, che spesso purtroppo, anche rimanendo magari per mesi, per anni lì, non si riesce ad incontrare perché non ci sono contatti veramente profondi con la popolazione del posto. Ecco, quindi questo è un episodio che mi piace ricordare. E io invece volevo poi, il tempo è tiranno in radio, a me veramente corre veloce, c'è poi la tua chiusura del libro, che ho trovato veramente, guarda, ben fatta, geniale, perché poi vedi l'Italia dall'Afghanistan e ti riprometti di visitare alcuni luoghi di cui hai sempre sentito parlare, ma nei quali ancora all'epoca, quando hai scritto il libro, non eri stato. Sei riuscito a mantenere almeno una di quelle promesse? Sì, uno dei luoghi per esempio che citavo, perché tra l'altro assomiglia stranamente alla valle di Bamiyan, quella dove c'erano purtroppo distrutti nel 2001, è Matera. Matera, esatto. E ho mantenuto la promessa con me stesso, ci sono andato e sono stato contento di andarci, perché è veramente un posto stupendo, e con la scusa mi sono fermato anche nel Cilento e poi ho proseguito e ho continuato a conoscere tante persone che in un modo o nell'altro hanno avuto a che fare con l'Afghanistan, italiani che a vario titolo sono stati là, e devo dire che uno forse delle conquiste più grandi che porto con me del periodo lì è la consapevolezza del fatto che malgrado tutte le difficoltà nazionali, l'esperienza degli italiani, dell'Italia in Afghanistan è un'esperienza molto importante, cioè ci siamo confrontati e ci confrontiamo quotidianamente lì con delle sfide che ci rendono sempre di più un paese, cioè un sistema di persone che a vario titolo, non parlo solo dei diplomatici, parlo anche dei militari, ma parlo anche dei pacifisti, dei rappresentanti del mondo delle ONG, sono tutte persone che alla fine collaborano per cercare di fare qualcosa di buono. Quindi penso che ecco, una delle belle cose che ho conosciuto dell'Italia in Afghanistan è proprio questa, la capacità di imparare ad essere una nazione che possa anche proporre dei modelli da imitare, che anche altri paesi possano apprezzare. E quindi questo sì, ho avuto anche il piacere di vederlo, poi scoprendo altri pezzi d'Italia, e il programma comunque è ancora lungo, non ho intenzione di partire. Vabbè, l'Italia è una miniera, insomma, veramente volesse il cielo, avessimo il tempo di poterla ammirare e visitare. Nicola, noi tutti di Bruxellando veramente ti ringraziamo per aver condiviso con noi insomma, questa tua esperienza. C'è un saluto, qualcuno a cui va in questo momento il tuo pensiero? Ma visto che siete a Bruxelles, mi viene anche da pensare ai colleghi belgi che avevo conosciuto e con cui sono ancora in contatto. C'è una ragazza che lavorava alla NATO, Franziska Bostin, che adesso sta all'ufficio del primo ministro. E che primo ministro quale? Belga? Il vostro, tra virgolette, belga, sì. Ho capito, va bene. E anche quello che era l'incaricato d'affari belga, Peter Lecknecht, che prima d'andarsene fece una fantastica festa in una villa definita di stile narco-barocco, veramente il trionfo del kitsch. Non mi stupisce. Però fece una festa fantastica in stile anni 80, che uno mai si sarebbe aspettato di trovare a Kabul. Hai visto, queste sono cose che insomma fa piacere a ricordare. No, un saluto a un italiano lo farei, comunque, sì. Anche questo che sta a Bruxelles è l'ammiraglio Di Paola, che è il presidente del comitato militare della NATO, che per l'Italia ha fatto in Afghanistan e in tanti altri posti veramente tantissimo, è stato il comandante, il capo di Stato Maggiore della Difesa nel momento in cui sono arrivato in Afghanistan, e il suo lavoro è stato talmente apprezzato appunto che ha ottenuto questo importantissimo posto alla NATO. Ecco, a lui veramente un saluto e un ringraziamento affettuoso. Benissimo, noi ci associamo ai tuoi saluti, ti auguriamo tutto il meglio per quello che sono insomma gli sviluppi futuri della tua carriera, e qualora dovessi continuare a scrivere d'altro, ricordati di noi. Non mancherò. Un'ottima serata, a prestissimo. Anche a tutti e agli ascoltatori, a presto. Grazie, ciao. Di nuovo, ciao. Ed eccoci qui, abbiamo avuto due piacevolissime interviste, io non posso essere che contenta, insomma, due momenti estremamente importanti. Enrico, che ci ha raccontato uno spaccato di vita di un contesto sicuramente più piccolo eppure importante, dall'altro invece Nicola, che in prima persona ci ha fatto rivivere dei momenti in cui essere italiani a 150 anni dall'unità significa ancora qualcosa, è qualcosa di importante, e questo è comunque un segnale significativo, perché ogni generazione poi ha le proprie esigenze, insieme a queste esigenze ci sono bisogni che si esprimono in un modo o in un altro, e ci sono questi talenti di cui parlavamo anche la settimana scorsa, che se usati correttamente, messi a disposizione nel modo giusto, recano sicuramente dei benefici. Quindi io ne approfitto per salutare, forse ancora non l'ho mai fatto quest'anno, tutti coloro che sono impegnati in missioni umanitarie, tutti coloro che oggi, come dicevamo prima, si trovano in un fronte a combattere una guerra su cui ci si interroga sempre, è vero, è iniziata, dicono sia breve, chissà quando finirà, memoria anche di quelle che sono state le guerre che ci hanno preceduto. Quindi veramente vogliamo ricordare tutte queste persone, e ne approfitto anche per salutare i nostri diplomatici, ovunque essi si trovino oggi nel mondo, quindi a Kabul, come a Tripoli, così come magari in luoghi meno turbolenti. Sappiamo che svolgete un ruolo importante di mediazione anche a nome del popolo italiano, quindi siamo con voi. George! Eccoti! Oh, finalmente! Ce l'abbiamo fatta! Oh, per la prima volta Bruxellando è in diretta. e ti ascoltiamo, perché insomma ho bisogno di una tua breve introduzione in merito. Dove sei? Beh, in realtà sono al Botanic insieme a Fiordaliso e a due registi che siamo venuti a vedere Trente Reche, cioè Il Tempo del Fiume, che è un bellissimo documentario sull'isola Socia. In che lingua, scusa, perché conoscendo la nostra Fiordaliso non oso immaginare. Trente Reche è in sloveno, come nome Socia. Bene. È la storia di un fiume, il fiume Isonzo per gli italiani e Socia invece per gli sloveni. Socia comincia come un fiume materno, perché Socia è una parola femminile, e poi quando attraversa il confine italiano diventa un giovinetto, Isonzo, e finisce per morire come vecchio nel mare. E quindi siamo in questo, al Botanic qui a Bruxelles, per la presentazione, la prima a Bruxelles, di questo film documentario. Abbiamo la fortuna di avere due registe, adesso parleremo qualche istante con loro, però avverto già gli ascoltatori brussellando che avremo un'intervista più completa, insomma di qualche minuto in più, in una delle prossime puntate. Per il momento allora presento anche solo telefonicamente Anya Medved e Nadia Velushek, che sono le registe. Ciao. Benvenute, benvenuti a Brussellando. Parlate un po' l'italiano? Sì, come no. Ah, quindi magari potete raccontarci qualcosa senza scoprire molto del vostro film? No, si può scoprire qualcosa. Dai, io sai. Interviste, però hai ragione a chiederlo. Ma noi siamo contentissime oggi alla giornata mondiale dell'acqua di presentare questo film dell'acqua, perché l'Isonzo Socia è tanta acqua, e oggi nel centro d'Europa, a Bruxelles. E speriamo che siamo riusciti a portare un po' di questa tranquillità che l'Isonzo, che è un fiume sempre, dà anche a questa città molto movimentata, molto in un mondo molto veloce. Ecco. E il film è ambientato in quale epoca storica? Una storia recente, attuale, passata? Allora, il film è semplicemente presentazione delle persone che in questo momento vivono vicino all'Isonzo. Sono dei ritratti della gente ed è una realtà di oggi che è molto complessa e ponga delle domande che sono attuali non solo per noi che viviamo lì, ma penso per tutto il mondo. Beh, effettivamente oggi... Il fiume non ha un tempo, è senza tempo, perché di sempre, e sarà per sempre, speriamo, se non roviniamo il pianeta. Sì, insomma diceva anche qualcuno nell'antica Grecia, no? Panterei tutto scorre. Certo. Sì. Vabbè, il nostro grande Eraclito l'ha detto un po' di tempo fa, noi l'abbiamo recuperato, anzi loro due l'hanno recuperato con il fiume Isonzo. Il film che racconta una storia, cioè racconta quella dell'attimo fuggente, purtroppo questo era il titolo originale del film, del documentario, però siccome c'era già non si poteva riutilizzare, allora hanno detto comunque c'è un tempo del fiume. Appunto il tempo, come già si sente anche durante un'intervista, il momento, un attimo fuggente, il fiume Anya però racconta, sembra avere un messaggio. Ma io, il fiume è... come ha detto Nadia, no? Noi siamo molto fuggenti, no? Il fiume è lì per sempre. Però una cosa che volevo dire, perché è una buona notizia, oggi abbiamo saputo che la parte slovena e la parte italiana, i sindaci dei comuni che stanno vicino al all'Isonzo, hanno segnato la lettera d'intento di annunciare il giorno dell'Isonzo, che sarà il giorno dell'Isonzo per tutti, perché fortunatamente pensiamo all'Isonzo, non pensiamo all'Isonzo come un ente, come hai detto tu, no? Come una persona che sì, ma no, per sloveni finisce a Gorizia e comincia a Gorizia, e questo è un peccato, perché l'Isonzo è un organismo, non puoi tagliarli un pezzo di gamba, e così la dobbiamo vedere, e solo così si può combattere per preservarlo, come anche per il futuro. Non so se abbiamo ancora tempo, credo di no. Giorgetto, magari un minuto ancora, altrimenti siamo lì, lo sai. No, allora evitiamo, perché io mia